e a pulvo io qui appendea. Gran duce! Posso io scoprirmi alla tua fede? Impegno nel segreto il mio onor. Parla, t'ascolto! Allora ti vuoto il sogno, sai che non basta al più vicino erede il titolo di sangue. Vuol la legge, vuol l'uso che lo confermi in chiare note espresso il real testamento. Ma come voglio aprir? Come il real carattere mentirne? Consenti all'opera e n'assicuro di mezzi. In che cadranno i nostri voti? In quella che del tuo amore fu meta. Meta, regina? Appunto, poi farò sì che del favore eccelso ella il premio ti venda, infatti sposo. Ma la santo mio cor! Pensa, trionfa d'un inutile timore e soddisfa egualmente nel tuo illustre destino l'odio e l'amore.